Drawings from Motel, questo è il nome del prossimo progetto espositivo di Art Motel e io torno a parlarne ovviamente con Lucia Cataleta e Dario Molinaro. Ciao ragazzi, bentornati. Ciao, grazie a te. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo chiedervi appunto che cosa consiste questo progetto, site specific, che si inserisce nel programma di Art City 2023 che sta per arrivare appunto a Bologna. Raccontateci un po' insomma come nasce l'idea e che cos'è. Allora, Drawing from Motel è la prossima collettiva cura di Art Motel che inauguriamo praticamente tra pochissimo, venerdì 27 gennaio alle ore 18, ed è una collettiva che realizziamo in collaborazione con Cittadinanza Attiva Emilia Romagna. Anzi, notizia freschissima di stamattina, ci è giunto anche il patrocinio dalla Regione Emilia Romagna. Quindi è una mossa appunto che viene realizzata in collaborazione con questa associazione che è nel circuito della regione e si occupa comunque di promuovere iniziative per i giovani. Quindi saremo appunto ospitati da questa associazione in questa sede a Palazzo Ratta. Ci siamo lanciati in questa, diciamo, impresa di unire il lavoro di 42 artisti che appunto si differenziano per età anagrafica, quindi troviamo sia artisti emergenti che artisti ormai quotati sul mercato. Il focus sarà quello del disegno, giusto Dario? Sì, noi abbiamo deciso di fare questa mostra sul disegno e farlo realizzarla prima veste con artisti giovani e artisti affermati. Quello che noi facciamo sempre, a noi interessa creare questo confronto e quindi anche questa volta sarà così. Esatto, continua infatti la vostra mission, no, principale, quella di Art Motel, di unire generazioni differenti e qua insomma avete unito più di 40 persone. Sì, diciamo che l'obiettivo è appunto quello, come diceva Dario, di fornire uno scorcio più ampio possibile del disegno contemporaneo, quindi per caso di forza maggiore abbiamo dovuto comunque raccogliere una rosa molto ampia che è appunto composta da 42 artisti. È stata un'impresa perché abbiamo dovuto recuperare i disegni di ciascuno di loro, però insomma il progetto è ampio e ci interessa dare questa prospettiva molto molto molto ampia. Sì, che poi abbiamo unito sia artisti che operano vari settori, nel senso che ci sono non soltanto disegnatori classici o pittori, ma anche dei fumettisti, degli scultori, e quindi abbiamo dato molto margine a questo progetto e ci interessa proprio questa formula, cioè sia avere disegni di disegnatori classici ma anche di scultori, come dicevo prima. E perché abbiamo voluto indagare proprio il disegno e proprio il segno è quello che ci interessa in questo caso. Anche la scelta di come giocare sullo spazio espositivo è molto chiara e definita, tra l'altro anche corredata con una parte testuale curata da Gioele Melandri e Elisa Di Stefano. Insomma, raccontateci anche un po' il percorso espositivo. Allora, come al solito non siamo mai prevedibili, cioè nel senso che ci piace comunque sperimentare anche dal punto di vista dell'installazione, quindi l'installazione è abbastanza insolita e audace. I disegni saranno posizionati su queste grandi tavole centrali nella sala e quindi l'esperienza di fruizione della mostra da parte del visitatore sarà direttamente a contatto con queste appunto superfici piane, orizzontali, perché appunto l'idea che vogliamo sottolineare è quella che comunque il disegno da secoli viene realizzato su un piano orizzontale, quindi anche lo sguardo del visitatore appunto deve andare dall'alto verso il basso. Per questo abbiamo pensato a questa installazione che è naturalmente site specific per la sala, che prevede appunto l'utilizzo di questi tavoli centrali. Allora, la mostra è curata da noi, ma come al solito noi cerchiamo sempre appunto di coinvolgere anche giovani che operano sul lato curatoriale e della scrittura. Come appunto dicevi tu, Rachele, ci saranno due tipi di testi, scritti da Gioele e da Elisa, che si differenziano per impostazione. Gioele ci farà diciamo un'analisi un po' più storica del disegno, arrivando fino alla contemporaneità, mentre ad Elisa, che tra l'altro è la sua primissima esperienza di scrittura di testo critico per una mostra, ci darà un testo molto più emozionale, istintivo, che appunto racconta della parte più spontanea, più vera, se vogliamo dire così, del gesto appunto scenico del disegno. Quindi anche qui quindi dal punto di vista comunque della scrittura, andiamo a costruire sempre quel solito confronto che ci interessa poi inseguire. Vogliamo ricordare ancora una volta, ragazzi, dove e come si può vedere appunto la mostra Drawings from Motel? Allora, l'inaugurazione sarà appunto venerdì 27 gennaio alle ore 18 a Palazzo Ratta, in via Castiglione 24. Siamo appunto ospitati da Cittadinanza Attiva Emilia Romagna e siamo nell'ambito di Arti 2023. Siamo contentissimi di appunto essere riusciti a rientrare nel programma e saremo lì fino al 5 febbraio. Inoltre il 4 febbraio, giusto Dario? Il 4 febbraio, che c'è la White Night, ospiteremo la scuola di Santa Rosa in collaborazione con l'Art Zine La Banana. Ci sarà questa sessione di disegno e fino alle 24 siamo lì ed è aperto a tutti.